Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Vi do il buongiorno con questo brano di Fiorella Mannoia, omaggio alla capacità femminile di adattarsi, resistere, reagire, perché di donne e della forza e dell'unicità femminile dal punto di vista squisitamente immunologico parliamo oggi con il nostro primo ospite del mattino, il professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica all'Istituto Humanitas di Milano e docente all'Humanitas University. Professor, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, canta Fiorella Mannoia, ma professor Selmi, fortissime per natura, perché le donne sono immunologicamente superiori, non lo dico io, lo leggo sulla copertina del suo libro che è fresco fresco, esce oggi, edito da PM, un libro che ci aiuta a fare chiarezza. E lei in questo libro racconta e descrive le peculiarità, i pilastri del sistema immunitario, le caratteristiche di genere e direi anche l'enorme potere di autoconservazione che la natura attribuisce a noi donne. Professore, mi è piaciuto molto, ho avuto modo di sbirciarlo e lo leggerò con attenzione, ma partiamo. Spesso noi abbiamo paragonato il sistema immunitario a un'orchestra, ma uomini e donne suonano lo stesso spartito o spartiti diversi? La metafora è molto azzeccata, perché nonostante la sua grande complicazione, perché il sistema immunitario ha un livello di complessità elevatissimo, quello che risulta alla fine è un funzionamento armonico che ha come obiettivo quello A, di difendere dalle infezioni, e B, da non difenderci dalle cose innocue, quindi proteggerci da una parte dall'autoimmunità, dall'altra dalle allergie. È vero, uomini e donne suonano degli spartiti molto diversi e in questo senso il significato è, o perlomeno il punto di partenza è sicuramente quello evolutivo. La donna, soprattutto nell'età fertile, ovvero prima della menopausa, deve essere protetta a tutti i costi per mantenere la sua capacità di procreare. E questo clinicamente si traduce con il fatto che le donne siano meno soggette alle infezioni, o quando qualsiasi tipo di infezione colpisce una donna, questa è meno aggressiva, meno severa rispetto al caso che colpisce l'uomo. Dal punto di vista strettamente immunologico, le varie cellule, i vari componenti, i vari strumenti del sistema immunitario hanno sicuramente un suono diverso. Le donne hanno un'immunità innata, quella più, come dire, più primitiva, quella che non impara dalla sua esperienza, più capace di combattere virus e batteri. Le donne hanno anche la capacità, per esempio, di produrre più facilmente anticorpi, e questo si traduce per esempio in una migliore risposta ai vaccini. Quindi partendo dall'osservazione clinica, le infezioni sono più severe, più frequenti nella donna, e assommando a questa le osservazioni che noi vediamo in laboratorio, possiamo certamente affermare che la donna è più forte, o se vogliamo più resiliente rispetto all'uomo dal punto di vista immunologico. Anche il Covid ha evidenziato che uomini e donne reagiscono in modo differente al virus, questo è un dato già noto in termini generali, ma che conferma ancora una volta quello che lei ci ha appena anticipato e sottolineato, che le donne sono resilienti, quindi attrezzate a resistere. Ma professore, quali sono i fattori responsabili di questa sorta di vantaggio che abbiamo in dote riguardo proprio anche alla reazione nei confronti del SARS-CoV-2? L'esempio del coronavirus è perfettamente calzante. Noi vediamo che circa 2/3 delle persone che hanno una malattia più aggressiva o che addirittura va molto male sono uomini. Addirittura sembra che si infettino più facilmente gli uomini rispetto alle donne. E questo può avere molti meccanismi, alcuni specifici per il coronavirus. Io cito sempre il fatto che la porta di entrata del virus nelle cellule dell'epitelio polmonare, ecco il cosiddetto ACE2, di cui forse molti hanno sentito parlare, che è una proteina che si trova, il cui gene si trova sul cromosoma X, quindi su uno dei cromosomi sessuali di cui la donna possiede due copie. Dall'altra parte ci sono dei meccanismi più generali, e ancora una volta dobbiamo dire per esempio come quelli che sono alcuni dei direttori d'orchestra della risposta immunitaria, cioè le cellule dendritiche per esempio, quelle che raccolgono un antigene, cioè qualcosa contro cui vogliono rispondere e lo presentano al resto del sistema immunitario, funzionano in maniera più efficace nel sesso femminile. A questo si aggiunge ancora una volta il fatto che i linfociti, quindi quelli che sono la parte più elegante dell'orchestra, quella più terminale, linfociti T e linfociti B, in entrambi i casi funzionano in maniera più efficiente nel sesso femminile, e questo credo che concorra in modo diverso a spiegare perché le malattie infettive siano nettamente diverse, e coronavirus lo dimostra più di recente, tra uomo e donna. Ma professor Selmi, il sistema immunitario femminile quindi sembra avere una marcia in più rispetto a quello maschile, posso dire così, me la passa? Le donne sono le più colpite dalle malattie autoimmuni, come mai? E questo potrebbe essere il contrappasso di quello che ci siamo detti, avere un sistema immunitario più scattante, più aggressivo se vogliamo contro le cose con cui deve effettivamente combattere, quindi in particolare le infezioni, può avere come prezzo quello di avere un sistema immunitario che si sbaglia più facilmente. E l'errore più comune in senso aggressivo del nostro sistema immunitario è quello che si ha quando il sistema immunitario reagisce contro parti del proprio corpo, quello che noi chiamiamo self, e questo conduce alle cosiddette malattie autoimmuni, cioè malattie in cui il sistema immunitario non riconosce la nostra tiroide o altre cellule del nostro corpo come self, quindi come innocue, ma reagisce contro di esse in un meccanismo che può assomigliare a quello del rigetto, e questo porta alle malattie autoimmuni che infatti colpiscono in oltre l'80% dei casi il sesso femminile. Professor Selmi, conoscere le donne aiuta? E conoscere le peculiarità in modo particolare del sistema immunitario femminile può essere anche utile per gli uomini, perché gli studi immunologici sulle donne sono e possono essere preziosi per la medicina di genere, per trovare anche nuove terapie. Professore, così coinvolgiamo anche l'altra metà dei nostri ascoltatori, se no sembra una chiacchierata solo di parte. La medicina di genere non è la medicina della donna, perché altrimenti ne parlerebbero solo ginecologi, senologi o altri specialisti che si dedicano quasi esclusivamente al sesso femminile. La medicina di genere studia le differenze della medicina tra i due sessi, e quindi è ovvio che in una sorta di yin e yang studiare ad esempio il sistema immunitario, che ne è un perfetto esempio, studiarne le peculiarità nella donna ha delle ovvie implicazioni anche nell'uomo. E in questo senso l'esempio di cui parlavamo poco fa, cioè i cromosomi sessuali, sono perfettamente calzanti, perché noi sappiamo che il sesso femminile ha due cromosomi X, il sesso maschile ha un solo cromosoma X e un cromosoma Y, per cui studiare il ruolo del cromosoma X nelle malattie autoimmuni o nella risposta alle infezioni ha delle ovvie implicazioni anche per chi come i maschietti ne possiede una sola coppia. Per cui è chiaro che tutto quello che noi andiamo a studiare del sistema immunitario femminile ha un'implicazione anche nell'uomo, e questo è particolarmente interessante dal punto di vista clinico, perché l'impressione generale è che le malattie autoimmuni, sebbene meno frequenti nell'uomo, quando avvengono forse con un'aggressività lievemente maggiore rispetto al sesso femminile, e questo è certamente qualcosa che dobbiamo studiare in maniera più accurata. Professore, abbiamo paragonato il sistema immunitario ad un'orchestra, uomini e donne suonano spartiti diversi, ma obiettivo è il suono, l'armonia, la bellezza. Allora, quali sono le regole, le indicazioni, i suggerimenti per mantenere il nostro sistema immunitario in salute, che in un certo senso significa anche in equilibrio, in armonia, perché la salute è questo? Le regole, innanzitutto non esiste nulla che stimoli il sistema immunitario, questo va detto chiaramente, perché è un claim che molto spesso viene fatto da alimenti, da varie sostanze, ma nella realtà la rilevanza clinica della maggior parte di queste affermazioni è perlomeno dibattuta. Sicuramente abbiamo alcune regole generali che ci permettono di mantenere una maggiore efficacia del nostro sistema immunitario, o che perlomeno quando disattese ne peggiorano sicuramente la funzione. Lo mettono in difficoltà, sì. Esattamente, in primis il peso. Noi sappiamo che il nostro sistema immunitario è meno efficace quando c'è un sovrappeso o addirittura un'obesità, e questo lo vediamo nel caso delle malattie autoimmuni. Tutte le malattie autoimmuni, penso in particolare all'artrite reumatoide, quindi una malattia fortemente femminile, fortemente basata su una accensione ingiustificata del sistema immunitario in senso autoimmune, che va molto significativamente peggio in chi è sovrappeso o obeso. Per cui questo è il primo obiettivo, a cui si lega il secondo: mantenere un'attività fisica adeguata permette da una parte di ridurre il tessuto adiposo, dall'altra sicuramente di migliorare la funzione del nostro sistema immunitario. Dal punto di vista dietetico, noi abbiamo dei dati sul beneficio della dieta mediterranea. Sappiamo che nelle zone, nelle persone che seguono la dieta mediterranea, l'artrite reumatoide ancora una volta tende a essere meno frequente rispetto a chi ha diete più ricche, per esempio di grassi, di origine animale. A questo si associano altri fattori, come per esempio il non abusare di farmaci, soprattutto certo, farmaci che possono agire sul sistema immunitario, penso ai glucocorticoidi, quelli che vengono chiamati comunemente cortisonici, o gli antinfiammatori, spesso da banco, di cui ahimè si fa anche un uso troppo generoso. Quali sono gli effetti dell'attività fisica sul sistema immunitario? Gli effetti dell'attività fisica sul sistema immunitario sono straordinariamente positivi. E questo soprattutto per chi fa un'attività fisica, come dire, moderata e non eccessiva, perché i dati per esempio sulle ultramaratone sono dati su cui bisognerebbe discutere maggiormente. In realtà l'attività fisica ha due effetti: il primo ha un effetto antinfiammatorio diretto, perché noi sappiamo che alcuni degli ormoni che vengono liberati durante l'attività fisica, soprattutto attività fisica aerobica, a cui facciamo riferimento, sono positivi sul sistema immunitario. Il secondo effetto è molto più semplice: la perdita di peso. La perdita di peso significa una riduzione del tessuto adiposo e quindi una riduzione dei meccanismi infiammatori che vengono prodotti dalle cellule adipose, quelle che vengono chiamate adipochine. Per cui a tutti deve essere raccomandata un'attività fisica ovviamente adeguata alle condizioni generali. Grazie professor Selmi per essere stato con noi e per averci raccontato, anticipato il suo libro fresco di stampa e Fortissime per natura, perché le donne sono immunologicamente superiori, PM Edizioni. Grazie al professor Selmi, a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, ad Anita Panizza in assistenza e a Laura Vanossi in redazione. Io vi aspetto come sempre a mezzogiorno. Buona giornata.